Savonarola, il frate che fece prigione a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che nacque su un pianeta dove le città con 1 milione di abitanti erano solo Roma e Londra, anche se quando morì erano arrivate a essere 11, e lette da me che sono nato in un pianeta dove le città con più di 1 milione di abitanti erano 191 e sono oggi arrivate a essere 483. Il punto è, quando la mia generazione morirà, esisteranno ancora le città? D'altra parte dice il proverbio che quando il villano è alla città gli par d'essere il podestà, tuttavia è preferibile non dimenticare che tirannia, tumulto e farina delle città son la rovina e che comunque sanità e libertà vaglion più d'una città. Serio, capitolo 6, volume 2, tiro alla fune. In quel primo giorno il disordine era tale in palazzo che bisognò contentarsi di non procedere più oltre. L'indomani il frate venne condotto nella sala superiore del bargello, ove, dopo averlo interrogato, minacciato, insultato, lo legarono alla fune per torturarlo. Tirato su era lasciato cadere rapidissimamente, ed allora, fermata ad un tratto la fune e le sue braccia, rivolgendosi indietro, percorrevano un mezzo cerchio. I suoi muscoli si laceravano e tutte le membra tremavano per il dolore. La tortura della fune, quando veniva data leggermente, non era certo delle più crudeli, ma si poteva anche dare in maniera da far cedere ogni fibra più dura, ogni animo più fermo. Continuata per qualche tempo portava inevitabilmente il delirio e la morte, onde il far confessare ad un accusato qualunque cosa si volesse era solo questione di tempo. Il Savonarola poi fin dalla prima giovanezza era di fibra delicata e sensibile. A causa delle continue privazioni, delle lunghe vigilie, del predicare per 8 anni non mai interrotto, era da più tempo divenuto così stranamente cagionevole e nervoso che la sua vita si poteva dire un continuo soffrire e sembrava sostenuta e sorretta quasi unicamente dalla sua volontà. Quel che negli ultimi giorni era avvenuto, pericoli, insulti, dolore di vedersi abbandonato da tutti, aveva non poco esaltata quella sensibilità già ammalata, ed in tale stato veniva sottoposto ad una tortura violenta e crudele. Come era assai naturale, egli cominciò ben presto a vaneggiare, le sue risposte non ebbero più alcun senso e finalmente, quasi disperando di se stesso, egli gridava con voce da far commuovere le pietre, non però i suoi giudici. «Tolle, tolle, domine, anima meam!» Felice veramente se fosse morto in quel punto. La sua memoria non sarebbe andata soggetta a tante nuove calunnie, il suo cuore non avrebbe patito una serie infinita di nuove angosce. Quando i giudici s'avvidero che per allora non si poteva cavar più nulla da risposte così incerte, lo sciolsero dalla fune per rimandarlo in prigione, ed egli, inginocchiato, si pregava per i suoi carnefici, «I quali non sanno, signore, quel che si fanno!» L'indomani, 11 di aprile, la commissione era composta e si dava finalmente principio a stendere quello che fu chiamato processo, col quale incomincia una serie di opinioni diverse e contraddittorie intorno al Savonarola, una difficoltà grandissima di discernere il vero dal falso, il vero ed il falso essendovi così stranamente mescolati che assai spesso riesce ugualmente difficile il credere e il discredere. Noi non possiamo dire quante volte il Savonarola venisse torturato, ma è certo che per compitare i vari processi si durò più di un mese e che i tormenti furono lunghi, continui e crudeli. Un testimonio oculare affermava di avergli veduto dare in un solo giorno 14 tratti di fune. Il Pico del Burlamacchi aggiungono che, tirato sulla fune, gli erano accostati alle piante carboni accesi e in tale stato lo interrogavano per scrivere quindi nel processo. Spontaneamente, senza lesione di corpo, confessò. Che egli poi non abbia sempre potuto resistere a quella tortura viene affermato da un numero così grande di scrittori che bisogna crederlo, sebbene moltissimi dei suoi seguaci affermino il contrario. Ma più che tutti gli scrittori a noi persuade questa opinione e la natura stessa delle cose. Dove e come poteva trovare la forza di resistere a strazi così crudeli e prolungati un uomo di fibra tanto sensibile e delicata che ai primi tratti della fune cadeva nel delirio? Il Manigoldo medesimo affermava di non aver mai veduto qualcuno sopra di cui la tortura producesse un effetto così pronto e crudele. Di certo, se anche allora con le membra lacere e l'animo travagliato fosse potuto risalire sul Pergamo, alla presenza del popolo radunato, sotto l'influsso di quei 1000 occhi benevoli e attenti, egli avrebbe ritrovato tutto se stesso ed avuto la forza di sostenere ogni parte della sua dottrina, anche a costo di dare con l'ultima parola l'ultimo fiato. ma di faccia a quei marmorei i volti dei suoi nemici che non lo ascoltavano, non lo intendevano e solo pensavano di rimetterlo nuovamente alla tortura, come trovare la forza di riandare, spiegare e difendere le sue visioni, le sue profezie, egli che già vaneggiava? Come possiamo chiamar responsabile di tutte le sue parole colui che più non le intendeva? Per Savonarola però dovette essere un momento di suprema angoscia, forse il più doloroso di tutta la sua vita, quello in cui, dopo aver ricevuto la prima tortura, fu rimandato nella solitaria prigione dell'alberghettino. Quivi, in faccia alla sua coscienza, dovette riconoscere che non poteva resistere ai tormenti, che legato alla fune assai presto vaneggiava ed avrebbe potuto facilmente dare qualunque risposta avessero voluta. Che fare, adunque? Una volta che la tortura era più forte di lui, bisognava pur cedere su qualche punto. Si trattava solo di scegliere. Il processo doveva versare sopra tre capi: la religione, la politica e la profezia. Cedere sul primo punto non era da mettersi in deliberazione, valeva mille volte meglio morire. Cedere sulla politica sarebbe stato vile, giacché comprometteva la causa di tutto il popolo e della libertà. Pure, in qualcosa bisognava cedere, non restava quindi che la profezia e le visioni. Non di meno la signoria, dopo aver distrutta la confessione autografa del Savonarola e dopo averlo interrogato con la tortura, era scontentissima delle sue risposte e ne sapeva a quale partito appigliarsi. Fabbricare addirittura un processo falso di pianta non era cosa a cui tutti si sarebbero piegati. Oltre di che la cosa, venendo facilmente in chiaro, poteva avere conseguenze spiacevoli e pericolose. Il popolo intanto mormorava di questa lentezza e i signori si andavano apertamente rammaricando delle difficoltà che incontravano. Fu allora che Sergio Ceccone, notaio fiorentino, udendo questi lamenti da uno degli esaminatori, gli rispose con sorriso impudente: «Dove non è causa, bisogna farvela nascere», aggiungendo che a lui sarebbe bastato l'animo di assumere l'impresa. Egli era stato in origine uomo di parte pallesca e s'era mescolato nella congiura di Piero de' Medici, scoperta la quale rifugiossi in San Marco, ove trovò protezione e salvezza. Qui vi finse di convertirsi alla religione, assisteva tutti i giorni alla predica e faceva il piagnone, il che però non gli impediva di continuare a far la spia del duca di Milano, a cui ogni giorno scriveva in cifra ragguagliandolo di tutto ciò che seguiva in Firenze. In tal modo visse fino alla prigionia del Savonarola, quando di nuovo gli si scoperse nemico, offerendosi di compilare il falso processo con alterazioni lievi ma tali da dar luogo alla condanna. L'offerta venne accettata con la promessa di 400 ducati, sebbene il Ceccone, non essendo notaio della signoria, non avrebbe potuto, secondo gli statuti, assumere legalmente quell'ufficio.